I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Che il settore delle telecomunicazioni sia in fermento, ormai ce ne siamo accorti da tempo, con Telecom Italia che è sempre alla ricerca di un partner, forse i francesi sono in arrivo, forse no, e con le operazioni di fusione, acquisizione e di investimento che i grandi operatori americani, soprattutto quelli della televisione via cavo, stanno facendo in Europa. Ma qual è la risposta dei grandi operatori pubblici? In Italia, che dove proprio ieri è stata presentata la riforma, è stata consegnata al Senato, la RAI negli ultimi 3 anni, sotto la guida di Luigi Gubitosi, ha fatto passi importanti non soltanto nel taglio dei costi, ma soprattutto nel redeployment, ovvero nella riassegnazione delle risorse che derivano dai tagli dei costi in nuove tecnologie. La RAI investe quindi in tecnologie cercando di ammodernarsi, però allo stesso tempo, e questo è proprio delle ultime ore, è partita la ristrutturazione della BBC, il più grande canale pubblico del mondo e soprattutto un operatore globale che attraverso BBC International può essere visto e sentito in tutto il mondo. La filosofia è la stessa, cercare di adeguare il settore e l'operatore pubblico a quelle che sono le regole del mercato, cioè cercare di minimizzare i danni alla concorrenza. E in Inghilterra come lo farebbero? Da una parte vendendo l'intera divisione internazionale ai privati, dall'altra ridefinendo completamente la presenza sul web della BBC. Attualmente la BBC ha una rete web che offre a tutti gli utenti di poter guardare film e programmi che sono stati già trasmessi in televisione e soprattutto sviluppare contenuti, quello che sembra dar più fastidio al governo. Per quale motivo? Perché la produzione di contenuti dovrebbe essere data ai privati e non schiacciata attraverso la presenza pubblica. Privatizzare, insomma, è la parola d'ordine, quello che in Italia difficilmente si riesce a fare. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. La legge delega per la riforma della pubblica amministrazione ha ottenuto oggi il via libera della Camera. Il testo ora deve tornare al Senato per il voto definitivo che potrebbe arrivare prima della pausa estiva. Si tratta di una riforma molto attesa, gli obiettivi sono numerosi, c'è la razionalizzazione delle amministrazioni statali con una dieta dimagrante per gli uffici del governo, per esempio per le prefetture, con l'assorbimento del corpo forestale in un'altra forza di polizia, c'è il riordino della dirigenza pubblica con l'introduzione di incarichi a termine, la valutazione dei risultati e l'eventuale licenziamento dei dirigenti. C'è un nuovo tentativo di riordinare le 7.000 società partecipate pubbliche, in più un nuovo impulso alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alle semplificazioni. Insomma, tanti propositi, tutti giusti, tutti condivisibili, ricordando che si tratta di una legge delega. Il governo avrà 12 mesi di tempo per predisporre i decreti di attuazione. Solo allora sapremo se ciò che prevede la riforma produrrà i cambiamenti attesi. È una sfida decisiva perché solo con una PA efficiente e moderna si possono creare le condizioni per rilanciare la crescita e gli investimenti. Il nostro paese sconta molti gap: il peso del fisco, la lentezza della giustizia, un sistema di infrastrutture non adeguato, ma una macchina amministrativa che non funziona rischia di essere il problema dei problemi da risolvere senza perdere tempo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.